No, non ti ascolto. Ciao Massimiliano. Buonasera. Capo, ciao Natali, buonasera anche a te, ben ascoltato. Cara gara. Giusto così di passaggio per salutarvi, dai. Ci sentiamo, statemi bene, grazie del controllino. Alle prossime. Eia, la benedizione ce l'hai data, ti salutiamo e fate sentire, ciao. Ciao Massimiliano, buon proseguo, alle prossime, dai, fatti intendere però. Non fa come ti vai tu. Va bene, ciao, grazie, buona serata ancora, ciao ciao. Ciao, ciao Massimiliano. Ha capito Natalì, mi ha sgridato l'altro giorno e poi anche l'oculista mi ha detto cosa, ma gli esami dell'altra volta non me li ha portati, no, per sapere almeno se aveva qualcosa l'altra volta. Ah, ne sto dicendo che non c'avevo nulla, non mi avete trovato nulla. Poi in caso uno se fa l'esame non si inabizza se c'è qualche cosa o no. E infatti, ma vabbè, lo stesso mi ha preso a voce il cardiologo, io sono dovuto riandare a portargli tutte le cartelle cliniche perché lui non mi aveva mai visto, no? Su quello cioè, ma a voce mi ha preso un bastardo dell'INAM, a quello lì cazzo non ci vado più. Senza voce, ma cosa si credono di essere? Ma cioè loro, a me non mi ha avvisato nessuno che devo portare gli esami, cosa ne so qui? Sono andato, ho fatto la visita oculistica, mi ha fatto la visita, ah, non c'è nulla, tutto a posto, va bene. Ha scritto HD, ha messo dei cosi, non ha scritto manco un referto, ha messo delle iniziali, delle cose, non ho capito un cacchio di quel documento lì. E vabbè, comunque, fatalo adesso e adesso mi tocca il cardiologo, devo andare in via Diaz. Da Marungiu vai, che c'è il dottor Giraudi che è bravissimo. E lì devo andare, c'ho la prenotazione dal CUP. Se me l'abbiamo fatto anch'io, abbiamo fatto meglio non telefonare più al CUP, prendi direttamente l'appuntamento dal dottor Marungiu. C'hanno il numero di telefono lì. Grazie di altro. A me quando mi controlla mi faceva prima recodoppler il cardio, no? E poi mi fa la visita cardiologica, dottor Giraudi. Quello era bravissimo, adesso non so se vivo perché era un bel anziano. Era, ma bravo come... E quello praticamente che ha insegnato a tutti i cardiologi, mi lavorava a San Pietro, non so se te lo ricordi, dottor Giraudi. Mi ha anche visitato a me, già lo so, sì, lo conosco, è quello che mi ha tolto il Triatec, mi ha detto che ero troppo giovane per prendere il Triatec. E vedi, quello ne sai. E poi mi ha spiegato anche il perché. E allora? Perché se prendi il Triatec non fai più nulla, Natalì, si sabboscia. E il misoprololo fa male per quello lo stesso, già lo so. Infatti io sono sempre in tiro, che? Okay? Ma tu perché fai del Viagra? Puzzinoso. Non ne ho bisogno, no, di quello. Ma vedi, dici di essere malato, questo e quell'altro, ti funziona sempre. E quello funziona, mica è colpa mia se funziona. No, non è colpa tua, no. Mimia, vai dammi, puzzinusa, non mai fa ridi. Concetta ridente. E allora, mia, vai. È una bastarda. Ma questa. Ma che ridicola questa cosa. A te l'immagine. Cazzo. Oh, iaia. Il cuore è malandato, poi c'ho un aneurisma, insomma chi più ne ha più ne metta, non mi circola il sangue bene perché non mi arriva sangue, allora sai qual è quel dolore alla gamba? Perché non mi arriva sangue alla gamba. La circolazione. Io ho una placca nella vena del collo, dai, la giugulare. Io ho questa aneurisma, dice che è grande quanto è una pallina da tennis, mi ha detto, se scoppia quella lì muore, mi ha detto il cardiologo. Lo ballegra, no? E non ti sei toccato. E cosa ti do che fa? Infatti ogni 6 mesi bisogna tenerla sotto controllo, però l'ultimo controllo che ho fatto ha detto com'era e non si è modificata per niente. Comunque il concetto ti stava sputtalando poco fa, cosa stava dicendo? No, stava ridendo, perché noi stiamo parlando di queste cose al baracchino, capito? Vabbè, l'ha sentita che stava ridendo. Ho chiamato per quello. Perché io ti ho detto che ero sempre in tira. Deve essere abbrecioneata che mi era fatta. Che mi lo fate funzionare. Allora non me ne posso aggiungere, mi dici. No, io la pressione già ce l'ho regolare, la glicemia a me la monomanza non mi butti sempre, boh, ce l'ho sempre alta, Natali, sempre, ne faccio 40 la notte di unità, cazzo, la monomanza non mi legge sempre alta, a 280, a 270, e solo se non mangio la sera, allora dopo la mattina ce l'ho sempre 110, 120, però non devo mangiare proprio nulla, se no se mangio qualche cosa mangio. Beh, cosa vuoi che ti dica? Se ti leggo le mie glicemie ti metti a ridere. Lo so, tu ce l'hai leggero, c'è un diabete leggero, però cerca di regolarti perché poi il diabete maledetto sale di colpo. Lo so, cosa vuoi che ti dica? Già mi sto regolando. No. A pranzo ce l'aveva 95, ce l'avevo prima di pranzo. Oggi, a colazione ce l'avevo ancora più basso, non mi ricordo da quanto ce l'avevo io. No, non mi sale più di quel tanto, quella pastiglia cazzo è una bomba. Che pastiglia prendi? Xigdo? No, Macron 30 prendo, e ne prendo una sola al giorno e poi prendo 6 unità di insulina la notte, buh. Non prendo altri. Io prima di pranzo ce l'avevo a 100, però se adesso la misuro sicuramente alzata sarà 100, 160, 170, alza subito. E a pranzo sai cosa ho mangiato? Un po' di insalata e una spinacina fritta, boh, basta, non ho mangiato altro, una rana. Figurati, ti sale troppo a te, boh. Mi sale, prima non era così, prima ce l'avevo sempre 85, ma mica a volte la mattina ce l'ho un bel bassami. L'altro giorno ce l'avevo 82, grazie, mi sentivo trimurita. E allora abbiamo mangiato qualche cosa perché la bassa. La mia è ballerina, caputa, non è che è sempre alta, è ballerina, a volte è bassa, a volte è alta. E non riesce a regolarmela questo. Bah, lasciamo perdere, va. Che adesso telefono al centro diabetico, non mi risponde nessuno, devo prendere l'appuntamento, perché io dopo che faccio l'elettrocardiogramma ho finito, devo prendermi l'appuntamento. Sto telefonando al centro diabetico solo un mese che telefono, non risponde nessuno. Adesso ci hanno sfruttato dal Palazzo Rosa a via Rizzibu. In via Rizzibu la faccio la cosa. Io ho questa dottoressa che è bravissima. Chiami verso quest'ora, ecco, e io chiamo e prendo l'appuntamento, invece mi tocca andare a pagare un marchigio a chi mi non si nagata manco a pagamento, se ti invidi, devo pagarlo e andare lì al centro diabetico di persona. Ma a me mi ha fatto l'impegnativa sogura data senza né appuntamento né nudando a chissà data e via, e allora mi mette l'ora e tutto con l'impegnativa, mi fa l'impegnativa lì. Ho capito, è che ne so, tu dici dirigente diabetico, sono diventati signori, io volevo andare lì e dici no, non ne prendono più lì, e mi hanno mandato al Palazzo Rosa. Lei al Palazzo Rosa sono andato, devo fare quella dell'urina e del sangue e poi ho finito il tutto, però con la lurina del sangue devo farla una settimana prima di andare, capito? Non è che posso farla 30 anni prima. No, prima di andare devi fare, andi una ghetta prima, ti fai l'analisi del sangue e la pipì. E allora, fino alle 24 ore, devo stare lì a casa, quando travagliavo mi doveva regalare la pula a casa presso, dentro una busta, andare in bagno, cazzo, sempre con questa busta, e come se ti guardavo, ma cosa c'è dentro quella busta, ma che cazzo te ne frega, alla fine gliel'ho fatta vedere cosa era, sono rimasta in me. Infatti, no, una provetta ne vuole, boh. non tutta quella delle 24 ore, una provetta vi la butto, mi fate in analisi e ti butto un'analisi e se le scrive nel computer quando va. Ma una provetta se devi fare quella delle 24 ore devi raccogliere tutta quella che fai dalle 7 di mattina in poi, devi raccoglierla tutta, poi una volta che tu fai tutto quanto ti prendi la provetta e te la metti nella provetta. No, a me è una provetta solo ebu, non delle 24 ore. Ah, a me le fa fare quella delle 24 ore che si vedono tutti gli acidi, tutte le cose e ci sono quando la fai vedi anche rimasugli di sabbia, di cose, di terra, qualche cosa si vede, tipo terra rimane, devo dire che va giù calcoli un po' d'arso. E comunque guarda, a me sto stufando e fare tutte queste visite, mamma mia, alla fine che ci rimane tutti da una mara. Sì, e io prima a te si gas da un lugo all'altro mi mandano i gas qua. Io sono lo stesso, hai visto tutte le visite che mi ha fatto va. Adesso dice è dal 2015 che non ne fa di queste cose, adesso la facciamo tutte insieme. A me mi ha fatto fare un cardiologo, l'analisi di Rusangu, uno schermografico mi ha fatto fare, poi tutte le cartelle cliniche ha voluto, ma fammi una visita del cacchio, ma dimmi va giù la versione alta. Sì, Natalia. Purtroppo siamo caruniati, già devi fare. Ma caruniati voci. Questo diabete è una prigione. E io cosa devo dire che ce l'ho prima di te? Tu ce l'hai da poco, ma io vi laggiù. A me me ne ha acciappato da 30 anni il diabete. Figurati. No, io ce l'ho da poco e ce l'ho perché mi è venuta la pancreatite. Se no non mi sarebbe venuto il diabete, perché stavo attento a quello che mangiavo e tutto. Ma tu una volta mi avevi detto che ti avevi misurato la glicemia e ce l'avevi alta, te lo ricordi? E io ti ho detto fatti controllare, fatti la curva da carico, di modo che sappiano se tu hai diabete o no. E tu mi hai detto no, mi hanno detto solo che praticamente era al culmine e quasi, c'avevo quasi diabete, però non era diabete ancora. Quindi c'avevi già una predisposizione. Erano tutti diabetici, erano. Mamma era diabetica, nonna era diabetica, nonno era diabetico, cazzo, lo sapevo io, per quello che stavo attento a quello che mangiavo, infatti me l'ha fatta la curva da carico e tutto, e non la vivo, vabbè, ho tirato avanti, tranquillo, invece dopo quando mi hanno ricoverato per la pancreatite me l'hanno trovato e basta, non venuta di va. E mi hanno messo in prigione praticamente. Cazzo, tutti i visiti. Perché dalla pancreatite poi sono sorti problemi dei calcoli renali, c'avevo l'ernia, tu sentimi in macchina di Marco, mi nesci dall'ernia, gatta qua. E ho avuto due operazioni, ho avuto una per i calcoli e una per l'ernia. Già so che andato dove, ti sto dicendo, guarda. Non fammi demo di operazioni, te ne devo dire quanto ne ho avuto io. Allora, due agli occhi, una al menisco, e so tre, poi il femore, so quattro, cioè so uno zoom. Siamo bionici. Il femore c'ho anche il coso, c'ho, già lo sai, mi hanno messo la protesi e grazie a Dio non sta lì, pagandomi la nibuccia, c'ho con camminate tranquillo, non c'ho problemi di nulla. E infatti, quando si possono dire che a me non posso camminare, è issue che mi viene questo dolore, l'altro giorno sono andato in farmacia, assicurano in via Rosello, morto sono arrivato dal dolore. E da che cosa questo dolore? Perché non mi arriva sangue alla gamba a destra e mi viene questo dolore tipo un crampo forte. Gua, non lo puoi risicchi. Ci credo. Ebbene, non si può fare nulla, scusa. Ma tu ti ricordi che avevi avuto anche quell'operazione quando ti hanno trovato la vena intasata, ti avevano... che c'avevi una vena che era mezzo ostruita, ti ricordi? Hanno avuto l'infarto, me l'hanno fatto quello. L'angioplastica mi avevano fatto. Lo so. Però da una parte solo, dall'altra non ti avevano fatto nulla, te lo ricordi che ne avevi due di vene che erano intasate. Ma questo è per l'aneurisma, questo coso che ho, questo aneurisma che mi ostruisce al 50%. E no, praticamente non mi arrivi sangue all'anca destra. E in chi mi va zimari? Beh, non si può liberare come ti hanno fatto con l'altro. A mezzo mio di no, cosa vuoi ti dico? È troppo pericoloso, che ne so. Se mi ha detto se si crepa quella neurisma lì è morto, muore. Mi ha detto il cardiologo. Ui. E poi sono schietti dicendo le cose, sono molto schietti. Ma lei lo sa cos'è un aneurisma? È una pallina da tennis lì c'ha nell'arteria surrenale. Se si scoppia quella lei crepa. E tu devi dire grazie. Ma chissà che magari c'è da prima lì. Questa è la via di. Speriamo che venga lì i rubadilli. Si mangia da bronzi, il disoccupante a bucci mi ha preso. Ah, chi su dell'ina ti la dico. E allora, un cardiologo. A chi su cazzo di venire un bel infarto come ti è giunto a me. Allora manco non fa da più. E magari se ne fuma due bacchetti di sigarette, dici. Ma tu fai male a fumare, Natali, perché con quello che ha avuto dà solo problemi la sigaretta. Ti intasa le arterie, tutto quanto, già lo sai. E le prime arterie che si intasano sono lì. Già lo so. Infatti sto cercando di non fumare. E sono fine e fine lì. Già sono andato bene. C'è tavoni, c'è cosa ti posso dire, ce ne sono tanti di ferrovici, se ne andiamo ci fanno demolire. C'è anche chi mi rotta mani subito. Magari Concetta si dà a te e se ne prende due giovani. mi intesura, nonna. A te ti ama. Mi intesura, basta uno e avanza, babbo. E poi lì da Roma e fa. Mia, vedi, mi sotto i baffi. Sì, Concetta, ma ti liberi due giovani, compreso? No. Intesa? No. È da buon Natalino, buh. Parla adesso. Lui basta e avanza, me ne è passata la voglia dei lumini. Così è. Dai, non è così, Concetta. C'ha anche i lati positivi. Avanti. Cos'è già? Ho detto c'hai anche i lati positivi oltre a quelli negativi. E te ne è passata la voglia degli uomini. Intesura. Noi. Si è liberi. Intesara. Non vedi l'ora di tu. Non vedo l'ora che muri. Almeno sono libera. Questo è grave. Chi ci sono parole brutte? Quindi se mi succede qualcosa vuol dire che mi ha ammazzato lì. E poi nella vita non si può mai dire niente. Non si può mai dire chi muore prima e chi muore dopo. Ne ho sotterrato uno. Intesura, la vedova allegra. Puzzinusa. Beh, così ci abbia pure la reversibilità. Oia, quante ne dicono le donne. Infatti. Ah, se ne va, se ne ingacco, dici, ma no. E ha detto che mi è buono il veleno per i tuppi e mi ammazza. Sono tu solo di quasi morire. Allucinante. Ma dopo le dice ma le dice a buffonetti, di così rimanchi guai. Infatti, la gara cazzata. È una cosa cazzo. Perché quella lì mi dà fastidio a farla funzionare. E bisogna dirla, sarà finalmente funziona. Serafina, però non ha più intesa Pastore Serafina, te lo ricordi Natalia Pastore Serafina? Sì. Lo sai chi è? Quello che vende il formaggio all'entrata di. Prima di arrivare a Usino, no, c'è quella strada per arrivare a Usino, la vecchia strada. E all'entrata c'è l'ovile dove c'è lui. E un giorno siamo andati a comprare il formaggio con Liliana e con Marco, che era piccolino. E Marco dice, tu chi sei? Pastore Serafino? E quello lì, tu sei, e te chi te l'ha detto? Allora è vero. E praticamente gli ho spiegato, ho detto guarda che io mondo tutte le notti con te, io sono doppio room. Ah già, diciamo che piacere, ci ha invitato il caffè, tutto gatto. E l'avevo invitato due forme di gaggio e una di ricotta, ma buona c'è ricotta. E in chi mi ha usato la roba di nuovo? Anche il formaggio era un bel buono, da quello morbido, ne abbiamo preso uno morbido e uno stagionato. E quello morbido era buono a fare arrosto, lo mettevamo nel microonde, quanto era buono. Di che tu bilante, così è. E allora, quello fresco, là, è fatto da poco, non stagionato. E ce lo mettevamo nel microonde e ce lo facevamo sciolto così. Ma sai quanto è buono? C'ha proprio il sapore del latte, proprio buono. E infatti è buono, sì. Ah, signor. Vediamo un po' se vuole entrare qualcuno, che stiamo parlando un bel oggi. Avanti se c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti, avanti. Se stai parlando non stai scendo di là. Non stai uscendo, tu prendi la... Mica. È furto il bello. Mica, a te immagini di Ciugani. È furto il bello. Tua canzone, Rigano. E l'accento che sta che canterina oggi, deve essere allegra, concetto. Oh, yeah. Natalie, non conviene piangersi addosso, conviene andare avanti e bu... Finché la barca va, lasciala andare, fermo di così. Adesso ti ho bellissimo. Vabbè. Concetta, vedrai che non rimarrà vedova. Te la vedi con filosofia, capi di più. Tanto mi natta lì. Stava per la che era passata a tutti e non ci pensiamo più. Vabbè. Niente, non pensarci alla mia bizzilla e non pensarci alla guerra. Natalino! E aspetta che devo stampare una ricetta. Che domani devo andare a ritirarla. No, certo, dico se non vuole dire, non c'è. Di riserva, ah, Pangualla. Anda a stampare e noi già si giura stampante. Allora stampimi. Natalì, andando in farmacia mi danno la busta grande perché faccio la spesa in farmacia, è tutto bene di medicina. Non fammi dare di pesa che più non sono da meno. Vabbè. Sì, che buongiorno, saluti di zia Ghisio, ma qui se va bene. Adesso si sta rifiutando di stampare, dice che non c'è inchiostro e ce n'è uno grande, nero. Boh. Ma no, ma chi prende? Aspetta già che controllo la stampante, mamma mia. Sogno qui. Boh, Natalì, io sto chiudendo, dai, che devo fare roba. Ci sentiamo magari più tardi. Ok, dai, tanto sto controllando la stampante. Oh, già. Ci sentiamo più tardi. Ciao, Carlo, ciao.